un prodotto che noi definiamo di serenità familiare, ovvero attraverso il quale tendenzialmente i genitori potranno monitorare le attività dei figli o delle persone anziane attraverso un telefono cellulare. Quindi è un'applicazione che si installa su un telefonino? Sì, è un software tra l'altro molto leggero e scaricabile in download wireless, ovvero connessione dati mobile. E autoinstallante e quindi molto semplice da utilizzare. Come funziona e anche quali sono le dotazioni di base che il telefono deve avere? La dotazione di base è un'antenna GPS installata, ormai le grandi case, i grandi manufacturers stanno lanciando numerosi prodotti con queste caratteristiche. È un'applicazione Java, quindi cross device, come la definiamo, cioè molto, molto compatibile con la maggior parte dei telefonini in commercio. E attraverso questo software è possibile interrogare altri telefoni o altri dispositivi dotati di antenna GPS e quindi conoscere la loro posizione, nonché si possono impostare degli allarmi su ingressi o uscite da spazi predefiniti, intendo spazi geografici e quindi quelli che vengono definiti recinti virtuali, o impostare allarmi su superamento di soglie di velocità o addirittura di frenate pericolose, esigenze che possono essere applicate ai neopatentati, ad esempio, in cambio di maggiore libertà nell'utilizzo dell'auto di famiglia.